Soca, soca. E vedi, da mi così. E che faccenda c'è? Ave, dammi così. Faccenda c'è, Giovanni. Giocando ciò, è per dall'altra. Fai bene, fai bene. Fai sempre, fai sempre. Che fa bene la salute. Tutti dormiti. Ancora presto, va. Già si sveglio fra poco. Lasciali dormire. Che a caldo si sta bene. Sotto le coperte. Io ho controllato la radio a Bah, ieri, stamattina. Però non ho visto nessun danno, ecco. Si sente basso. Gio Maria, sì. Di Bacchisio. Gio Maria. Non ho capito niente. Un attimo, Leonci, buonasera. Non ho capito niente, Lu. Ripeti. Gio Maria, mi senti? Perché stavo parlando Leoncino. Ripeti, Luca. Ho detto che ho controllato la radio di Bacchisio. E non ho visto niente di bruciato, capito? Ah, così che non funziona. No, si sente. C'è qualche altra cosa? Avanti, Giuse. Ma parla, Giuse Leoncino. Gio Maria, ci sei? Eia, mi senti? Gio Maria. Oia, io ti sento. Gio Maria. Sei chi? Eia, mi senti? Ti sento, bello. Sono qua a dopo San Pietro, dai. Già arrivo da fondo scala. Va benissimo, Giuseppe. Sono in quell'istituto dove fanno le cose dell'abilitazione, capito? Avanti. Vai, Lu. Ma io lo sento a tratti, Gio Maria. Vuol dire che sono ad ombra a te, dai. Allora senti a Luca, a Leoci. Negativo, non lo sento io a Luca. E lui ti sente a tratti, ti sente. Lo so, io sono fuori dalla struttura perché non posso... Solo una persona possono far entrare, capito? Io sto aspettando, è entrata mia madre lì per vedere questa signora e io sono fuori. Oh, capito, bene, ci sto arrivando io. A fondo scala. Arrivo così forte lì a San Pietro, così hai detto. A San Pietro sono, dopo San Pietro, dai. Grazie. E bello, lo senti? No, sì, lo sento a tratti. Dopo San Giuseppe, San Pietro. Pensavo che ci fosse Antonello, Pomponio, invece non c'è. No, io c'ero due giorni fa a casa sua, però non avevo il portatile, hai capito? Ho capito. Ogni tanto già entra anche lui, dai. Ma ogni volta il papà prima entrava più frequente, adesso invece entra poco, qualche volta così è massa. A me vuol dire che è impegnato, cosa vuoi fare? Non lo so. Va bene così, dai. Io sono qua fuori e aspetto, dai. Luca! Sì, lo sento anch'io adesso, Giuseppe, mi senti? No, non lo sento. Che zona è, Luca? Bisogu. No, non lo sento, Gio Maria. Vabbè, Parenzia. Giustamente, non è che lì dall'aria siamo quasi vicini, dai. Ma tu dove sei a casa, sì? Se ti girano, ma sì, a casa. Già va bene, già va. Anche qua tu mi arrivi a fondo scala. Eia, su Cariello. Qua sto mandando un messaggio a Graziano. Lavoro, Giuseppe. Niente, negativo, nulla, Gio Maria, nulla. Ormai ci siamo rassegnati aspettiamo aprile a fare quella cosa là e vediamo un po' cosa ne esce fuori, capito? Sì. Quello là di Alghero, invece di aumentare il prezzo, mi voleva dare 500 euro, cazzo, per fare le nozze, hai capito? Cazzo, hai detto, a passare un punto di vergogna. Purtroppo siamo arrivati a un punto proprio brutto, Hai capito, Gio Maria. E attento, UFO! Oh, è questa la nascita. E ci sta anche il televisore. La televisione l'hanno fatta vedere oggi. Cazzo, avete un trappiglia? Ma va a cercare, lì sono cercati nella polizia. A chi hai dovuto denunciare i giallini? Ero se la massaggiano. Alla ciappali. A mai dare tra gli amici e quelle che c'erano, e per cui la ciappali subito, capito? E farò bene, io se vuoi continuare il tuo e lampadeggia del mare. Miserabile. Quello è un miserabile. E non è senso che l'ha detto a Elsa, alla Bogo, e gli ha fatto fare brutte figure. Bebo. Soia, già se manda di me, per carità. Soia. Ho visto il filmino che hai mandato tu, dopo, oggi alle 2 l'hanno detto alle 3. Ma io lo sapevo da ieri, però l'ha arrivato a Rai 3 pure. Se manda in diveggia, vedo un futuro con questi giovani di oggi, per carità, non ti dico capire. Ma mi chiedono, non è fuori di paura, mi chiede male a me. E la conosci, quando si ritorna a casa, ne combineggia i genitori, mi. Ma ne combineggia un bel, perciò non è che sia... secondo me è colpa di Elsa, guarda, mi posso giocare un gozzo. Ma io non sto dicendo solo a lui, no, pure lei deve essere una bella randaccia. A chi? L'hai visto che nel giardino lì, vicino agli alberi, lo stava affrontando a mani aperte lì. Poverino che sul cagnolino l'ha regato tutto a tirare di lui. Davvero è fuggito, non l'hai visto? Vabbè, ma è proprio male, guarda, io... quanto ne ha combinato in casa, lo so perché conosco i genitori. Gentaglia, quella è gentaglia, cosa vuoi fare, per carità. Dico, ma si sono intendi tutti di grazia di giovani, perché qui una lì è da andare fuori, viene sempre una, è sempre la polizia, no, i carabinieri. Si può avere un cambiamento all'ingresso? Vabbè, comunque, come si dice, comunque lei ha più colpe, perché stava rompendo le scatole. Poi conosco il personaggio, la conosco benissimo. Se tu fai dire, un Ed aveva 20 anni in croce, si vira pure 20 anni, 21, parli chi è dannaggia più di te, chi ne sa più di te. Cioè tu parli con lei come se tu non sai niente, lei ne sa più di te. Ma vai cacca, vai. Ma lui al limite la poteva portare in un posto più appartato, ricordiamo un paio di cavalli e una barra di bilancio. Boh, bascia. Ma non così, ad avanzare, così se hai ragione passi al torto. Vabbè, ma l'hai nervosito, se vuoi dire che tu è uscito di capo e... Cioè, quante volte gli ha detto di andarsi, di allontanarsi. E poi, sai, le persone come sono fatte, ma lei avrà anche sbagliato, non lo metto in dubbio, però anche lei, pucci. Io già vivo, gentaglia, per carità, lui è, pucci, figo con fianco, no, per carità. Sono quante volte gli ho detto, fai la brava, mica c'è due genitori d'oro, ma... come ti poeta. Io conosco, il padre è veramente in gamba, E dici, poi ho parlato anche con la mamma, ci ho parlato. Nulla, fa di testa sua, è tutto come dice lei. Vabbè. Poi prenderanno una decisione prima o poi. Sì, e ti credi che faccia la fine buona quella lì, se continuate quel passo. Fate la fine dei gani, sapete che un'altra gaffa è duro, che tira droga, abusi, le impasticcheggiate. E allora ha finito. Ma in casa tanto si vede che bisogna soffrire no, quindi gara cimi. A pugliatura. Ah, che bellissime ragazze, le sono tutte messe male. A volte io quando venivo in macchina in casa, non le dicevo, ma perché non te ne vai? Invece di farti ti prendi una bella sbronza con la birra e sei a posto. Sceme, proprio senza cazzo. Sì, sono persone che, come si dice, magari i genitori sono persone brave sicuramente, sono viziate, ecco. Ehi, ce n'è una qua che i genitori sono bene, c'hanno il lavoro buono. Addirittura la mamma di una di lì è assente sociale. E non sai quante volte è giunta no che ci si raffiata. Ma come dura è addorrare noi, non hai compreso. Sono vari chiaro salvezzo bruciato, non hai compreso. Abate Gio Mario. Io non le conosco, non posso dire niente. Tutto lì. Il fatto sa che anche se è cattiva, per arrivare a quel punto, come ha fatto lui, non è una cosa da fare, ecco, tutto lì. Cattiva quanto ci sia, vabbè, il codo non capo, ma la fracassata, la fracassata, cazzo. Poi la vita come cadrà qua in terra, non la conosco io sinceramente, nemmeno lui, boh, io ho visto il filmato però non ho sentito tutto ciò che hanno detto, capito? Boh. Ma abitano lì, al monte oppure dove lui? E lei sì, vicino a casa mia abita. Ah, così, per carità, cazzo. Non va bene lui, dai, è cattiva quanto sia. L'ha picchiato forte, cazzo, cioè che se lo trovano, guarda, già lo trovano senz'altro. Cazzo, vedrai che non la passa liscia tanto facilmente, poi bisogna anche vedere lì ciò che ha detto, così che magari si muore in buletta dentro. Beh, se tu guardi bene il video, lì gli ha dato degli schiaffi a lui, ma schiaffi che gli ha dato, si gira, amico, non ti credi, non ne ha fatti nuda, si gira. Bella roba, però... Quelle persone bisogna allontanarle, per carità, no, sempre lontano bisogna stare da questa gente, qui si è grazia. E allora chi sa per pericolo se ti ci la cochi, ti nitrata la wallera, ti nitrata, e allora è va, fumi. Luca, vero? Per carità. Che bello aspetto, adesso è già un annetto che non l'ha vedo più. E adesso canto quindi a Beccio, vendeva a Fesce, da Porto Solo si è finita. Ma una bella ragazza, mi bionda, stupenda, proprio bellissima, simpatica. A me mi dice, sono a posto, non mi faccio più così così. Allora di Nacci Vazieno che vende i Beccio. E invece c'è tornata a scendere di qua stesso. Adesso un annetto che la mamma ne l'ha pigiata. Beh, se ne boccia mai in garage, grazie. Giù nel garage, non la pizzicavo sempre. Lu, a te credi? Mi dizia, aspetta che mi serve lo specchietto, mi filmavo in macchina, ci va di arrivati giù e la pizzicavo la macchina. Per carità, a che punto, cazzo? Ma chi se la droga mi fa di fare il cefetto, grazie. Allora, che ti credi che io me la mia vita quando mi dicia che non se la vendi più? Ci vedi a 30 km di distanza, la luce, che era sempre fatta. Magari no, che e fanno farci vedere se la bicicavo e non si va via, ma la ci va via in i garage più in giosso. E io mi da voi che tutti i malattini da dei giosso cattivi e si terra tutti mitragliati di ciriglie che te l'hanno raccogliere se si coccano i buchi che si garage la luce e non mazzano li vedi accendini pare ne scendini da pare ne da una montagna giubbotti, cuffietti, zaini, borse e ne va la montagna soffarelli. Un me, come te lo fosse ovvio, ma te sei i carini di moderno, lì, il caro Umberto, tu passi lì, che a te lo mazzano, e se non si può manco passare. La casera verso i 4 mesi, la di Vichu, Edo, tutti gli sottano un braccio, cassone, bigiato, se si danno i barati si danno zittimato. Io so, va a passare la luce, si va a venire un materasso. E la si sentono dentro i catturoni. Bobo, Luca! Così è, Bobo. Per carità. Bobo. Scelta di vita. Oh, io moro la notte, ma te ci moro. E mi domando e dico, puro chiamare la città paletta, se ne da dalla montagna sono scendi, so parati. Come ti cavolo vattene con un freddo che vede, ti vede 3 diti di ghiaccio in altri cappotti di macchine, accucarsi. Curi sarroni, ero freddo, ero molto là, adesso mi viene auto che buffa chi gira. Perché tutti i garage dormono? E allora, con i cartoni, una notte, verso le 11:30, mezzanotte c'è una graffetta, se si parla ne si vuole né tutti in fila. Vabbè, sono tanti in fare a voi agli drommi. Si accappano tanti e drommini, però mamma mia, quei sarroni bisogna inchivimi. Ehi, è pieno, ci ogni tanto vengo quando mi acciaro, no, a fare dalla macchina, le mie figliure, quando intendo il rumore. Apro un po' e abbaio, no. E li vedi gli altri, assende e farelli, con la merce in bocca. Figurati, mi drommini, carità, buttiamo avanti. Ivi bisogna a disinfettare una ricca città, ma sei più tranquillo, gatto. Anda un pissino, gatto, per tante cose, la biglia in mano, magari in fretta, e se a posto è. Mio figliolo non sapeva appunto rubiglia, è stata mese e mese andando a fare analisi, visite, contro visite. E adesso ci sta buttando un bidone di varecchina alla settimana nell'angolo tutto l'entrata del mio garage. Si vede un bel bianco di varecchina così i vini non si bosano a fare, si vanno più in fondo, no? E stasera punta al piede, gli ha dato un calcio a spostarle da vicino alla serranda e lì se ne entra a dare la botta alla digna, se l'abbiamo buttata appena il pollice del piede. E che da mesi fanno rilievi, fisi controllandosi, meno male che non gli ha fatto niente. E se l'abbiamo buttata pure l'ambulanza qui, è giunta l'ambulanza a buttata. Ai no, se ne viene di un re, il cantinato di un difetto gruppo elettroce della Cona, da no. È un cancello. Prima ha corso da anni, hanno fatto un rientro. Aveva visto 3 carini, mi hanno attaccato al guancello, lì, per non vedere nessuno. E io vengo tutto da quando sono bussato di noi in sala, no? Cazzo, sono con di fronte e vengo tutto, faccio fare i binocoli, cazzo, e vengo tutto, vedere di lui la salì, non la qua, assassini di carini da che ci hanno fatto la dose, capito? attrezzare che schifo, fate di schifo veramente. E non c'era pure il tacco di bicciali e da pure la strada e da papà. Infatti non li fate di più niente e c'è niente. Oh, io non li farò più niente, stamani e la zicchirria, tutto zicchirria, la femmina. A chi non ridici la faccia, chi va tutti i beni tutti facciati. Oramai non sa più neanche lì dove farsi. Si fa in faccia, nel collo, bisogna andare dalla Recci. Da tutti i baci, e sciamani lì. Ti faccio dire, era venuto un luogo dove non ci riusciva. Ah, ed era zicchirri, una zicchirria. Bobo. Macello, un macello, e cosa vuoi fare, cosa vuoi fare, gatta, fai niente, gatto, è qui che va dritto, gatto, però non vuoi fare niente, cosa fai, io la dico, cazzo, la dico, scurivi, ma te si, dove sta la 127, tu c'era la droghetta, c'era la bottola a zintola, e lo prazzo e c'era la droghetta, no? Ma era un bastello che fa entrare a coppia io. E te c'è poco, c'è gacco poi, c'è a me. E beh, io, bastello a baizzelli, no? E te lo puoi dire a baizzalli, cazzo. All'altra volta, cazzo, dicevo che ci dicevo passare a strabbarsi. E tu lo dici, ce lo mandava anche su baizzi, assai, ma... chissà, un paio di mesi fa, ma aveva tutti i denti, ogni dentiera verde, proprio bianca bianca. Si la vedeva tutta scintigata. E allora ma così fate male quando fate lì l'affare, capito? Ah, ma così non te la moschigheggia. E allora, così ci pigli una dieta con chi sa niente, tu mi amari, ti vedo lui. Te l'ho detto, scelte di vita, tanto non voleva bucanniti. Ciao che qualcuno già si salva, nel senso che ormai è anni, ne conosco qualcuno che si è ripreso, ma anche le donne, purtroppo dipende dalla testa, dipende dalla testa. Ma è un po' difficile, mi... se mi di niente che si fa di cannone, che si... ma se mi dite niente che si bugni, la capisci, che si parano sempre, poi magari va a guantare un annetto, però ci scendono sempre. Ne conosco troppi, Luca, ma un bel ne conosci a vivo. Anche gente che tu manco te l'aspetti, eppure sono così. A molti non lo danno a vedere perché lo sanno, però si va a tenere me stessi. Pineno, gattormati, tu a vederlo così non ti sembra, ti sembra uno normale. E invece, sotto, non è normale. Vabbè, tanto tu non vuoi fare nulla. Poi ho notato che non è che giri molto con la polizia. Gira poco e niente. Perlomeno, per quello che vedo io, sono già qualche anno che scendo qua, Ma comunque scendo anche nel garage di Marina. E se tu come scendi, fai la discesa e poi giri a destra lì, no? C'è il suo garage, che è nascosto, è tutto pieno di siringhe. Ehi, perché ci mettono negli angoli? E da me, impara quando vari per la brutti a uci della parata. E che visto? Nessuno terra si va. Però si mettono dietro nell'angolo, capito? Oh, a passo. Ma pure di buggio, pure la macchina non si vede. Tu se fai cioè, con il telefonino si fa venire la luce. Oppure chiarica. Lo so. Un giorno c'era questo cartone. Un cartone l'hanno aperto loro. E ci hanno fatto il tavolino per appoggiarsi da cose. E no che vado in la matta sicura, per carità. Ucci, mi ha scritto. Ma tu più glielo dici. E va già, ti ultimo di sia, quando veniva a travagliare in bicicletta, un buco in crepa, pigliavo un mosso di roccio quando aprivo la serrata, dico vabbè, aveva cominciato a far rotta, da che comincio. Se la poi la che dica che cosa è terra, allora io non sono chi tu non è mio, chi tu mi devi dare, se invece sono essi. Ma come si fa così? Ah, se gli sono un bei noca, finisce la Madonnina, non ti farà ammazzagare. E gli si senta lì, si senta di scucchire, ah, è un buco per noi. Ci sono i passaggi in mezzo alla frasca, no? Passano i soldi, il pong, gassoni, cazzo, i strati, asciugamani in terra, chi va di coccani, chi di culo cocca le notti, capito? Prima si sentava per questa casa della Mazzagane, e poi c'era la letaccato a blocchetti e se ne fatti luogo dove c'è i simaccioni, capito? Ma è pieno di simaccioni, mi dici, di cassoni, cacchi coccani chi di un bene. E beh, molti dormono in carriera, genti, chi si sono andati da casa sua, ce l'hanno tutti pure, e coccani dove li cazzo. C'era un periodo, veniva uno vicino a Bertuzza dietro, però. Trumia da fare un po' se credi, l'anguri. Via, per carità. Io ho fatto, gli ho già passato in macchina, le vengo, i ghiri. Ah, ogni tanto ne c'è uno, se tu ti fermi, vai dai, ti dai i marcheggi, ma te, se tu li vedi, scendi lì. Tutto affrontato, cammini e pare gli imbriachi, da chi si fa, e da voi inizia da fuori, capito? Dambola, dambola. A voi là, mi vengo cognati, da romanzana alla luce, no? Basta tacciare, cacciati, ma vengo. Ma poi ce ne sono molti che vengono. Si la biglia lì, se c'è in macchina, entra nei chivi, rubiazza le due grazie al cielo, ma stessi. Si va in macchina, si rampano tutti in terra e si innanda. Ma manco ballato in camera, pure ad avanzare a te, non era tutti nuda. Si amasci che femmine, tu li devi vedere. Ehi, poi viene una macchina, ma sono sicuro, questo lo conosco io. Una macchina, l'Audi va all'Audi, dico. Bene, quasi ogni arrivo bene. Si vuole che ci due negri. Da voi se ne fa la macchina, se ce la giostra sotto là i furichini, e dati la droga, e dati l'idea, e si innanda, ricapito? Da voi la parola da all'astre, voi chissà a carità di questa cosa, ragazzi. Ma quasi gli arrivi, io le vengo da chi, sono cosiddetto bussati, io dico ma cuore, e per cui e vengo tutto altro che su che fate, ricapito? Ah, poi da lontano, metti di ricannocchiare il conducto. Ma tanto non ripassi né nulla, quanti volte non mi sono giunti di carabinieri. Allora sono lì, a lasciarli perdere, a non dirgli niente, tanto quasi nel bicchio. E cosa si lasciano fare? Si lasciano qui, di ora se li vede donna, altre volte. Fino alla sera, poi un'ora era lì, se non ripassi né nulla. Buonasera! Io non me la faccio, io lo vengo, ripeto, ma non mi interessa. Poi va che si fare di altri, a me non mi interessa, ma per dire no. Quando faccio per la Dio, faccio il cagatore e mi posso andare a dire pila del Berusoli, da Mazzano me. Cazzo, c'ho che oriori, chi li busati, e fai tutto l'andamento che fate, mi capito? No, questa cazzo la faccio. No, non c'è niente a nessuno, come mi possono farci me, allora si può ammazzare. Ehi, mi è entrato Vittorio, ciao Vittorio, ben sentito, in chi è la sì? Ciao, grazie, buonasera anche a te. C'è anche Gio Maria e Luca. Buonasera Gio Maria. Ciao, buonasera, ben sentito. Dai Luca. Come state? Vittorio! Buonasera! Buonasera Luca, se ci sei! Già so Ginocchi io! E onde anda? È il caso Luca, se ne affutti, Vittorio! Che lo metto a te in giro, cioè se ti giro. Luca è casaliggo. No, oggi devo andare veramente, però troppo presto, a vedere come si chiama, il Festival della Musica Sassarese. Perché stamattina ho mandato un messaggio a un amico per i biglietti, a prendermi il posto, poi ho chiamato e no. Levami a me perché non posso salire troppo presto. Prima devo cenare, no? E poi salivo. Poi ci verso in chivia Risetti, no? Me ne sto a casa, stasera niente. A calduccio. Vai e lupa. Tutti a coso, a teatro, vera. Non so se l'hai inteso, però Pippo Franco, vera, a Rinucci. Pippo Franco, eh? Ah, non so, così era il corso al teatro, si era dal ferroviario, non so come. E cosa, me la di Meienaro, di Giari Luce, sono andata a fare Pippo Franco. Ah, c'era Pippo Franco, forse compiono gli anticorpi, l'hanno detto al telegiornale, dopo tanti anni sto a Mercadelli a Pippo Franco. Ah, ecco. Vabbè, voi dite che la faccio un po' guidina. Magari io, prima magari in gioventù andavo pure al teatro, ma era un teatro, venga andata. Io vado via a Luca, ma questa chiazza. Mi posso andare a cena, a pranzo, ma al teatro vai a cena, ma non vado più, no. Prima andavo, io ero abbonato a Luferdi, da cinema, e quando fai un teatro andavo pure a un teatro. Vabbè, anch'io ci andavo, c'era mio zio che lavorava alle quattro colonne, oppure lì al Moderno, ma no, non mi interessava, andavo a vedere solo i film di Fantuzzi, se no del resto non mi interessava. Noi non andiamo a luogo, ecco. Ma magari io già cammino bene, mia moglie che un po' cammina male, capito? È troppo pesante, per cui non ce la fa a camminare, capito? E allora erano di anni. Magari se andiamo a pranzo a Chilogu, un percorso è sempre in macchina, poi magari da Simosa e per cui. Ma andare al teatro così no. No, saranno, grazie ai tuoi avanti. Ti ha una vita sta buono in piedi, un cinema. Buono, un 30 anni. Buoni, tranquilli, sino di più puro, forse di più. Forse buono 40, là, quasi. Ti ha una vita va di molto più piedi in cinema. Pippo Franco va, anda così, ci va dei giorni così, nelle città, nelle isole, a chi oramai i film non li va, se li va più, non l'ha chiamato più nessuno, e dunque devi dire ad Anansi, Luca, e allora ne approfittano andare così, magari adesso da qui si ne farà da Cagliari, capi, e guadagnano qualche cosetta così. Un paiente di chi si è? A chi poi andare in pensione e li dati una miseria, li dati lì. E la gittese in televisione, ragazzi, non ha messo due o tre la gittese, cazzo, una miseria, dopo il danzare del travaglio, capito? Purtroppo si dava, è chiaro che non li pigliare più a far figli, eccetera, e si arrangiare così, dava bella meglio, panzo batteva ad Alanzi. Mi vedi buono, sono in condizioni un poco vecchie, però, poco, già ne di esigenza di lui, capito, però, sono terra, di Però benissimo, che hanno avuto la possibilità di guadagnare tantissimi soldi durante la vita che erano giovani. Peggio paesino si nane busta una barca. A Cristina che pigliava Pippo Franco quando ha fatto un film, badi. Tu manco 100 anni di guadagni, compreso, poi dici nane magnati, peggio per loro, se no dai nane di bacia. Proprio così, perché se la godevano, capito? Andava a fare la bassa là, si fa indossare da manina, ragazza, e lì andava a riprecato, era riprecato me. Allora, dicevo, perché se tu dici, no, però non ho visto più, è vero, io non ti ne arrivato, caro mio, e io da ragione. Avanti lui. Io facevo il pacchinaggio, l'ho pagato bene anche. Però orari lì, tipo, cosa ne so, facevo due piazze qua a Sassari, no? Poi smontavi e finivi alle tre di notte e partivi verso, cosa ne so, verso Cagliari. Una volta arrivati lì, alle 8, piazzare tutto e finivi, vabbè, io scaricavo, facevo pacchinaggio. Poi dalle 8 alle 10 scaricavamo tutto e poi ci andavamo un po' in giro a riposare, andavamo a farti la doccia, ti cambiavo, se volevi uscivi sono stavi lì a riposare e niente, ne ho visto spettacoli, Io ho conosciuto anche quella che faceva la pubblicità con la signora anziana del Pandoro, insomma, Legati, che vincevi la Ferrari, poi Massimo Wettemüller, quello che faceva la pubblicità. Mi sono stato bene, dai. Io ho aggiunto un programma che non me ne ammetto i nomi, no, però allora mi faccio vedere in televisione e ti senti che hanno fatto un saccazzo alle travagli e magari di là li pagavano, però lasciavano poco contributi e sono arrivati a un esai che pigliano una miseria, per 200-300 euro cazzo di pensione al mese, cazzo, un bebè di artisti che ormai non fuori fa più niente, che sono anziani, capito? Se la mettente alla televisione dice che pigliavano una miseria dove danzare i travagli. Fece molti buru di addabali a chi magari ma con la presenza fazia le capelle le razioni magari due soldi le razioni, capito? Un po' di niente, travagliava in nero, capito? Sicché mi sono scendo a piso di persone, capito? Quel lavoro l'ho fatto anche io, Luca, l'ultimo palco che ho preparato piazzato è a Piazza Lessegna, al palazzetto dello sport, a Nitletoni. Tutta la lì fanno un mazzo, piazzenni, buonanotte, smontenni, carichenni, milugami, ma pulcati da un altro paese. E da me mi buoniano i due citi in mano, ha detto, beh, lì c'è l'ultimo travaglio, non ci vengo più, non ci sono più andato. E vai, apri la voce. No, quello non è un lavoro, quello è una presa in giro. Due citi mi da dire, ma lo tenna. No, allora io in lire prendevo come facchinaggio 200.000 lire, 100 a caricare e 100 a scaricare, al giorno, sì. Poi una volta mi hanno fatto fare aiutante elettricista, no? A Piazza della Scena, e lì prendevi 150.000 lire al giorno. Fatti conto, prendevo 150, no, al giorno, scusa, 150 per montare e 150 per smontare. Mi ho fatto 3 giorni di lavoro, fatti il conto, 900.000 franchi. Io lì dovevo guidare, caricare, scaricare, piazzare, da fatto tu ci vedi di qua, tu devi dargli il palco pronto. L'ultimo che ho fatto al Nitletoni, al palazzetto dello sport, lì a Platamona di fronte a Ernesto, di quel residente che c'era, adesso lì piazzavo tutto il palco, le pedane, e insomma, sempre baguicito, un amazzo, no, saranno, ma curigliani, sempre travaglini, ma bravo. Vai, non è per me. No, vabbè, io ripeto, facevo facchinaggio e una volta tramite un amico, dai, ti facciamo fare, ti metto in mezzo perché mi serve un aiutante, ti arrangi, ci metto, sì. E a Piazza dei Faretti, sai, no, tutta la scena. C'è 300.000 lire, solo tre piazze, invece lui lo faceva sempre. E che ci sono in Vasilia di là, poi non mi hanno più chiamato. si hanno fatto, dice che si riportavano direttamente da fuori le persone per lavorare. Però bello, stavi bene. Allora, le ho fatto 8 piazze la prima volta per 200.000 lire, fate il conto quanto sono in soldi, 200.000 lire al giorno per 8. E poi queste 3 piazze, poi ogni tanto li chiamavo a fare qualche piazza così, anche ad Alghero siamo andati. E Falegnameria, quelli lì li avevo fatto, qua c'era un complesso che c'era, lì ai punti del figlio del mio principale, c'aveva un complesso, c'aveva, altro non mi ricordo manco il nome. Le avevo fatte falegnameria, 10 cassettoni per metterci tutte le chitarre, tutte queste cose così, la strumentazione, luci, ma paoloni grandi, con i manigli belli, neri, le ho fatti tutti con le cerniere, e tutta la strumentazione era lì. Ma dai, un amasso, un avuccia, no, lascia perdere, non mi si capisce più. Anche sfilate di abbigliamento, roba di moda, ho fatto. Lo so, grazie. Aspetta un attimo, riprendi Gio Mario un attimo, che ho fatto una cosa su internet. No, il lavaggio non l'ho fatto mai. No, perché facevo altri lavori, per cui è tutto un altro particolare lavoro, più cosa vuoi fare? I travagli purtroppo tutti chi sono alla TV, ma lo sai che altra gente per morire di fame, ma te li fate a se li pigliano magari a fa la presentazione e la presenza e gli date tutti i soldi, gli date ragazza, e manca assicurate, capito? E cosa vuoi fare? E so a zonzo, capito? Ma se cazzo mi dici a zonzo, non hai idea. Un bel, purtroppo così, anche i cucini travagli cucini, mi sono per la disoccupazione, non hai idea, grazie. A chi va, mi sei giovane, se sei giovane e magari mezzo d'archiato, magari riesci e a fare chi si vedesse niente, allora gli altri piccoli, ma se no... Io era tutto nero, né assicurazione né nulla va via, ma non c'è nulla, ha detto no, mi dispiace, non ci vengo più, che non mi piace, tu non c'ho mai un orario, no. Perché ti vieni un altro? L'ho mollato di piombo così, mi ha smontato tutto, gliel'ho portato tutto in deposito, a me non mi cercare più, non ci vengo più, stai cadendo un altro, non faceva, quando era lì 3 giorni va via, roba di 20 biglietti per non pagare, no, lascio tutti i dati. No, era ammesso travaglio e poi senza assicurazione, ma ve la voi, 24 su 24 questi, no. Purtroppo, ma cos'è che hanno in Italia, cos'era il travaglio quando avevi in Italia, ma culo venne, uno mese dell'altro, per carezzare, cazzo. In Italia, cazzo, non fai un travaglio in grazia di Dio. Tutti i travagli a furatura so, capito? Capi buoni vuole sempre l'operai. E allora, detti pure io, rifugiati di qui, rifugia 30 un camion, ma non c'è niente, che me ne voglio andare a casa e mangiare in banca, o non hai compreso? Non ci vengo più, le assicurazioni ne nuda, me ne ha tutti a mettere di là. Chi da questi ti fa dire i conti erano sempre i bocchi, a chi non avevi nulla, e assicurazioni, niente, ed eri sempre a disposizione, ma non si. Purtroppo mi so chi di che va andare, via, per carità. Si abusano, capito? Il travaglio mi sono controllati e per cui, però non ero per sempre in mezzo, capito? E si riesce sempre a fare qualche cosa, capito? Purtroppo siamo arrivati a un punto che, per carità, non è possibile se gli ci fate l'Italia lo vede la salvazione che lo fate le chiese. E che da poi quando smontava i chivi ci diceva già mi guarda che devi andare a Nuoro per domani mattina verso mezzogiorno deve essere tutto piazzato, se no devi scendere poi da lì a Siniscola, la vita di Lugani, ma non è nato. La rabbia a Cagliari pure lo saranno, vai a passare continuato, se no ti guidi giù e t'arrangi. Ma che si travaglio, bisogna andare a missare la base, no? No, io ripeto, non ho già avuto mai cose di travaglio del genere, capito? Magari già ci travagliate, ma fa pochi soldi, però per esempio quando ci ho messo la mucchinetta io abbiamo ristorante via e sono messo la 30.000 franchi un mese, grazie. Allora abbiamo un negozio in cose di adomizione alla gonfiamendola, mucchinetto. Grazie, sono messo a fare servizio a domicilio con la 600 furgone, allora per i 600 furgone. Oh, mi lascia 30.000 franchi a Romisi. Poi ne fasi a 30 o 40 di marci, però grazie a marci. E tu mi dici a chi le dico, ogni tanto mi lamentavo io. E dice tu guadagni anche a marci, per cui le marci sono cose mie, a lei non interessa niente, lei mi deve aumentare. Non siamo italiani, se ti piace, mi sono già andati. E mi sono guidato, ho 7 anni, mi sono guidato, 7 anni. Infatti da voi mi sono questo fatto e l'ha detto mi guarda se lo momento me ne sto andando e dice sì ormai ti conosciamo, dice sei di casa ormai conosci tutto l'ambiente qua ma forse 5.000 franchi d'aumento 35 qui non dico niente però fate a ripeto fate a più di marci che di stipendio e da voi fate a viaggi ai fradetti magari a ritirare i merci dalla stazione eccetera che io bucavo dica bucavo a tutti i fradetti per cui invece allo stipendio ma manno buru capito per cui mi sono guidato 7 anni mi sono guidato un mucchietto. Da voi non mi ha potuto aumentare, me li sono cantato. Così che mi sono messo a fare la notizia, capito? Ma quindi sono un bel così, cosa? La gira dei travagli, di tutti i manini, la ci ho provato. Per carità, meglio niente. Chi su proprio di travaglio andava a piazzare i palchi, e chi manco morto. Vai, senza assicurazioni, senza nulla, ma non te n'ha. Praticamente ti vivi nata a Lugano, caricata e piazzata. Smontato la carica e dai no che ti devi imbattere la bocca. No, la capisci. Chi se te lo fai tu se ti piace, se no te ne sei tu un altro. Aspetta, mi sono nato, grazie. Eia! Luca, mangiando stai? No, sto guardando un video di un telefono, grazie a... per cambiare il connettore di ricarica, capito? Per vedere un po' come se è facile o no. Ehi, guarda bene, guarda, se è facile fallo, se non ne vale la pena che da voi non ti pagano, non ne vanno manco. Oh vabbè, se Luca è bravo già ci sta a fare, eh. Vedo che Luca già è matto per la tecnologia. Perché Luca, visto, è robotizzato, copiato, visto. Grazie. Ho detto Luca, è robotizzato. Robotizzato, mi pare brutto, però anche io vado amato per la tecnologia, se ci so fare, ci so fare. Io ci si interesso, se c'è un problema di wifi o altre cose, se lo interesso fare, ma non svoltare. Però Luca queste cose già le sta a fare, smontare il telefono, il segreto, gli ha detto, no lui. E certo, certo lo so fare. Ah, sembra anche facile, dai, sembra anche facile. Ah beh, io il mio telefono l'ho aperto, stamattina l'ho aperto per cambiare lo speaker dell'auricolare, perché mi ronzava, mi è arrivato ieri e funziona non bene, no, di più. Adesso la prossima settimana mi arriva la batteria e compri batteria nuovo. Vittorio, lo sai che Luca ha autocostruito un gatto topo, diglielo lui. Anzi, un topo gatto. Sì, no, mamma mia. Luca, diglielo tu. Ehi, è poco cammina, amico, questo topo gatto. Oh, yeah. Dimmi, grazie, poco cammina. Luca! Aspetta un attimo, sto guardando questo video, aspetta. Ma digli del topo gatto. Questo video sto guardando, aspetta. Come aspettare questo sciarabbia? Aspetta che faccio una chiamata a vedere se c'è quel bandito di Tore. Tore senza motore, ci sei? Non c'è, vediamo se c'è Macchigio, Mormito sì. Non c'è neanche Macchigio, grazie, negativo. Claudio non l'ho più sentito, sarà da farci benedire Claudio. Perché Claudio c'ha i bambini piccoli. Vabbè, ma si poteva far sentire, prima veniva tutti i giorni in conversazione, adesso proprio, manco una idea, ma perché voi tutti i giorni già vi sento? Ma quando c'hai sei bambini piccoli viene un po' male a stare al baracchino a chiacchierare. L'ultima coppiata erano gemelli, tre. Certo, quello è giusto. Luca, aspetta 2 minuti, vado a controllare la stufa. Già rientro subito, Vittu. Va bene, grazie, aspetto, mi raccomando, sia bella, bella pulita, o da bui, se no, e ci vorrà di gabbo, se no. Ehi, Eia. Giomari, caduto sì. Adesso con Busati, non si passa tanto facilmente che sa cadere a girevole. Luca sta studiando come smontare un affare nel telefonino, sta guardando. Ufim mi sta guardando, già l'avevo sentito. Lascialo guardare, speriamo che lo sia di quelli spinti. Non penso che si guardi quella roba, Sta guardando come sostituire un pezzo in un telefono, se è molto difficoltoso o difficile, capisco. Sai com'è, perché lui già è giovane, per cui già sa il metodo, quelle cose non le guarda lui, lo guarda in persona, ma in cinema non penso in Albaidia, sta guardando il video come si sostituisce per vedere se è semplice o difficile, capi? Per carità. Ma Tore non si sente, ma chi c'è nemmeno, tutti in giro sono. Tore secondo me va la femmina, e ci sono quando noi ci entra. Minimo sarà guardi, sarà quel Tore. Ma cosa ne sai, grazie? Minimo sta prendendo che su un video come si sostituisce il cavo del caricabatterie. Minimo se lo starà ancora studiando per bene, perché non è così semplice farlo. E allora, dove sei, Vittu? Al coso sì. Anche ci può giocare di giù. Allora Salesiani, sono in chivi. Ma lì non fai niente tu, non c'è niente da fare, a studiare, non fai niente. A volte gioca a ping pong oppure a biliardino, calcio, basket, chissà che mi capiteggia. Ma molte volte non ci gioco perché so che voi mettete in contatto verso le 6 o 6 e un quarto. Ma lì non ce ne sono chitarre a impararsi a suonare. Sì, ci sono anche strumenti musicali, ci sono, c'è di tutto, grazie, già ti gridi. E allora perché non te lo impari? Già ci sono entrato lì già per lavoro. Oh, tanto tempo fa, non mi ricordo, delle tende avevo piazzato, delle finestre, delle veneziane avevo piazzato, tanto tempo fa. E beh, perché non ti impari qualche strumento a suonare? No, già sono pianista, grazie, lì ci sono la batteria, ma non è che la batteria la so suonare. Io a scuola quando ero a media facevo pianoforte, avevo il corso musicale pianoforte, ma non è che sono così bravo a suonare proprio gli strumenti musicali, no? E posso, vabbè, non è detto che non ci sono i pianoforti, perché un giorno salto al piano di su e vedo gli strumenti musicali, mi sembra anche il pianoforte, poi non lo so neanche se c'è. E almeno ti impari a suonare qualche strumento, a canticchiare. Sì, ma è una giugana, grazia. Preferisco qua parlare con voi che a suonare. Ma se ti impari uno strumento a suonare, magari poi ti piace e anche la musica, e magari dopo un indomani diventi un musicista. Sì, il musicista l'avevo già fatto quando era media, grazia. Ma gli misuravi solo un bifaro, cosa? Perché anche io alle medie mi ricordo che avevamo solo quel bifero e basta, alla lezione di musica. Ah, e la chitarra c'era, e basta. Sì, è vero, va bene, la 4, lì ci sono strumenti, c'è il pianoforte, il clarinetto, la tromba e la batteria. Ah, e la tromba pure c'era da noi. Io le scuole le ho fatte, le medie, alla gradia, quella palazzina che è tutta mezzo rotta, che l'hanno chiusa, è tutto recintato. Lì ho fatto le medie io. È vero, tu hai fatto anche, perché non ti hai fatto l'agraria alle superiori, vero? Ma tu ti sei diplomato lì? No, lì ci sono l'agraria e c'erano le scuole medie, quella palazzina che è proprio sulla strada, che è mezzo demolita, ci manca tutto il tetto, che sta crollando. Ah sì, è vero, presente, lì, è vero che lì prima c'erano le medie, è vero, fino a tutto crullende, va, me ne freghismo ormai, non gliene frega più niente a quelle persone di rifarla. E di lì ho fatto la prima, la seconda e la terza media. Com'era bella? Era bello sì, io ero al piano di su perché era due piani, quella palazzina. Era bella come scuola, l'hanno lasciata decadere, è un peccato. È un peccato sì, pacari dai, va. E poi lì c'è anche l'agraria che andavamo, anche all'agraria andavo, anche giù dove c'è le campagne, ci sono le serre dell'agraria a studiare. Io andavo alla ricreazione, mi piace stare alle superiori proprio all'agraria a me. E alla ricreazione se mi capita prendo qualche limone o qualche mandarino o arancia, perché ci sono tutti pieni di alberi, capito? Ma se vuoi la roba anche lì te la vendono mi, perché io la compravo, anche i fiori lì vendono. Infatti quando mi sono sposato i fiori per il mio matrimonio li ho comprati lì. Mi sembra che quello è il mercato aziendale, è vero? Sì, e lì puoi comprare di tutto, perlomeno. Quando ci andavo io era così, adesso non te lo so dire. Ma penso che sia sempre lo stesso, che vendono lo stesso. Sì, qualche volta mi con il professore io ci passo, perché il professore molte volte per divertimento ci porta in azienda. Poi andiamo in azienda, ogni tanto ci fanno prendere qualche mandarino, ma lì vendono di tutto, vendono verdura, lattughe, di tutto, carote, di tutto vendono in chiesa. Eia, vendevano di tutto prima, adesso non te lo so dire, ma penso che lo vendono ancora. Ah no, già vendono ancora, perché io ci passo sempre in azienda, capito? Grazie. E poi si comprava anche bene, non era cara la roba. E poi fresca, anche fresca la cosa, perché era appena fatta. Noi pacari dai ancora fresca la roba, sì, già è bella di qualità a me, perché poi roba di campagna è di sugato, compreso. Già lo so io, già ci sono andato parecchie volte, quando guidavo con la macchina già ci sono andato, poi però non ci sono più andato. Ma ormai, ma molte cose sono cambiate, ma perché tu ci andavi molto tempo fa. Minimo, quanti anni avevi quando andavi alle medie, dai? Fammi, quanti anni avevi? Quando andavo alle medie, allora, la terza media ci avevo 15 anni, quasi 16, da. Quasi la mia stessa, diciamo, da. Ehi, appena ho fatto la terza media e poi me ne sono andata a lavorare, perché mi piacevano i soldi averli in tasca, sono andata a lavorare. Vabbè, poi non è più continuato. No, mi piacevano i soldi, perché vedevo gli altri amici miei della Greffa, qualcuno che stava già lavorando e ci aveva i soldi in tasca la domenica. Loro se ne andavano a divertirsi e io rimanevo lì solo come un imbecille senza soldi. Spaccalizzare. E allora sono andata a lavorare e poi la domenica c'avevo i soldi e me ne andavo al cinema, in pizzeria, capito, a ballare in discoteca. Mi sembra che tu in discoteca andavi al taccio, no? Ne ho girato tante, che adesso non ci sono più, la maggior parte non ci sono più, quelle discoteche dove andavo io. Ormai le cose sono tutte cambiate, non diciamo più. Ormai, aspetta, siamo un po' bene di molto tempo fa, tu eri ragazzino, avevi 15 anni o 16, mi avete tutto. Allora io ho 62 anni, figurati quanti anni fa. Sono già un bel po' di anni. E parecchi pure sono. Aspetta, sono al telefono. Ok, grazie, stai tranquillo. Bello bene. Grazie. Mia nipote che mi ha mandato un messaggio da Londra, perché lavora a Londra. Londra, bello Londra, bellissimo. Perché lei è professoressa di lingue. Adesso deve dare gli esami per il cinese. Caspita. Ed è piccolina, c'ha 27 anni, ha fatto l'altro giorno, la settimana scorsa. Ah, per quello. Si è laureata qua, come si è laureata è partita a Londra. Ci abita già un paio di anni là. Grazie, ma mi sembra che ti avevo chiesto l'amicizia su quel gioco, ma me l'hai accettata tu? Oh, non l'ho guardata, questi giorni ci avevo da fare, no, non è che c'ero molto appresso al telefono, capi? Per quello, c'ho sempre qualcosa da fare, stamattina stavo riparando il carrellino della frusta perché si è spezzato un piede. E allora l'ho dovuto pulire bene, liberarlo, incollarlo, mettere due chiodini, innastrarlo, lasciarlo asciugare, E poco fa me l'ho piazzato, già l'ho aggiustato. Beh, certo. Mia moglie voleva buttarlo, l'ha detto la carità di alla consu. Ieri l'ho messo da parte e stamattina me l'ho aggiustato. Bravo, grazie, hai fatto bene, bravo. Nuovo, l'avevo pagato 45 euro, perché sopra c'ha come tappo i disegni con una mattonella, capito? Poi c'è il cassettino e poi ci sono i cestini per mettere la verdura, la frutta e le ruotelle. C'è la ruota dove la ruotella. Cioè, pizza, allora papà 45 euro ne valerà bene, E beh, non ha più compreso. E poi è bella, è bianca, è nuovo nuovo. È ovvio, nuovo nuovo gli andava. E l'ho aggiustato stamattina e lei non se lo credeva che l'ha aggiustato. Gli ho detto, lascialo lì, domani l'ho aggiusto. Infatti, oggi l'ho aggiustato. Perché lei ce lo voleva buttare. No, io quando la prima non andava, prima ad aiutarlo, se non volevo già tirurarti. No, già ce l'ho visto, l'ho aggiustato e adesso ci ha messo la frutta, le patate che c'erano lì, le cipolle nei cassettini, no? Cioè i cassettini di acciaio. E ci ho rimesso la cosa, e sotto puoi mettere le bottiglie di vino, di birra, capi? Ah sì, ho capito, eh. E mica ce l'ho butto, era una cassata aggiustata. Si è rotto perché si è bloccata la ruota, lì l'ha tirato e si è agganciato e ha spaccato il pezzo del legno dove c'era la ruota incassata. Ah, per quello. Vabbè, se l'hai aggiustato già hai fatto anche bene. Per l'appazzino non andava, perché poi se costa 45 euro, non è che da poi si lo rampi, no? Non so più dire poi si lo rampi, no? Ma prima gli usciamo, la baita era... Cioè, la usciamo e buh. E infatti l'ho aggiustato, l'ho messo a posto, ma così vede che l'ho aggiustato. E già va bene. Sì, infatti anche a mia madre è successo. La Giudizio, accontalo, cosa dopo che ti dica. Ma tanto fa pure a non l'ampazzita, che si sicuramente da me è un peccato, da compreso. Lì ci ho buttato un carrellino di quelli della spesa, che c'è quello zainetto attaccato, perché si è spaccata una ruotella e quella ruotella non è troppo, e allora ce l'ho buttato quello, ed era nuovo mi anche quello. Se volevo l'aggiustavo, ma giudizio e la pazzi di tanto non ne tratti mai. Bagnoglio. Lo usava una volta ogni morte di papa e gli ho detto a buttarcelo qui, ma volendo si poteva aggiustare anche quello. Ah, non è voluto aggiustare, tanto non ne usa. È stato malissimo. E allora, vediamo se c'è... Tore, accessi. Tore non c'è. Marchisio, Abisese. Marchisio non c'è. Gio Mari a Sabedini, la TV. E manco è dove, mi sa TV non è fissa in dalla fabbrica con noi, no? Si starà guardando quel programma di coso, come si chiama, quello che c'è, adesso non mi ricordo il nome. No, nemmeno io me lo ricordo, papà, fammi un esempio. Quello che fa le domande, che c'è De Laurenti, sì, impara De Laurenti. E lui è coso, Gerry Scotti. No, Gerry Scotti è finita, adesso c'è quell'altro, non mi ricordo come si chiama. Oh, forse nemmeno io me ne ricordo. Paolo Bonoli, riprendo subito, grazie. Eia, Paolo Bonoli dice con De Laurenti, chi fa Gerry di Fulvissi? Mi pare a Burgi e Riscotti, ma se mi stesso che non v'è più Riscotti, da voi, mi vai a Girriscotti. No, adesso c'è Paolo Bonoli. Ah, ecco, Paolo, esattamente. Insieme a De Laurenti, che fanno ridere lo stesso. Già lo so, mi sono con la mamma, figurati. Perché fanno ridere, poi fa quel gioco a rispondere alle domande. Se indovini vinci un bel di soldi. Beh, perché per avessi guadagni tu e rinascio so due. Ma penso che per andare lì ci vuole anche fortuna. Non penso sia per tutti. No, per quello ci vuole fortuna, dai. E poi devi sapere almeno il minimo di qualcosa, la devi sapere. La maggior parte della gente che va lì già ne sa le risposte. Già ce n'è che non ne sanno, ma già ne trovi parecchi che sanno le risposte, capito? Certo, perché poi se trovi una persona che ne sa proprio bene, sa proprio queste cose, allora cioè sa rispondere correttamente. E parecchia gente vince un sacco di soldi anche. Per dire, ieri ne ho visto un pezzettino, la finale, c'era una donna e ha perso tutto. C'aveva 26.000 euro, mi sembra. Ha sbagliato la domanda e ha perso tutto. Cesso, pascalizzai, mamma mia. Vabbè, se non ci sarei neanche andato, se non avessi saputo queste cose non ci sarei neanche andato. Per perdere soldi così, cioè non ne vale neanche la pena a provarci. No, ma il gioco sta così, che le domande sono a sorpresa, non lo sai che domande ti fanno, capito? Vabbè, non ti lasciati in manco. E poi tu invece di rispondere, la giusta devi rispondergli quella sbagliata, perché se gli rispondi la giusta hai perso, gli devi rispondere quella sbagliata in quel gioco, è così. Ja, così, se gli rispondi quella giusta, è ovvio che perdi. Se rispondi quella sbagliata, invece vinci. Tutto al contrario, sembra. È al contrario quel gioco lì, infatti. Non devi dire giusto, all'incontrario, sempre sbagliato. Se infatti è fatto tutto quanto al contrario, perché in verità dovresti fare quella giusta, invece perché quello che quando fai dovresti fare quella sbagliata, capito? Grazie. Ehi. Ma io sono contento quando vincono qualche signore anziano, qualche donna anziana, che magari ci vede che gente che ne ha bisogno, capi? Di quelli io sono contento se vincono, però se vince uno che ha già i soldi, non andava. Fa da bene, vieni vincita, non ha di nacca, è un poveraccio. Allora già sono contento. Che ha vinto uno che non ne ha, almeno tira l'ananzi. Mi sei giusto, no? Non mi piace invece se vince uno che ha già i soldi. Non l'avrei fatto manco entrare io, uno con i soldi. Oh, ma nemmeno io l'avrei fatto entrare uno che aveva che c'ha i soldi, dai. Vedi, tipo Luca. Luca è un impresario. Beh, per esempio Luca già ci guadagna per fare questi lavori qua, aggiustare i telefoni, riparare cavi del caricabatteria, l'attacco del caricabatteria del telefono, per aggiustare altre cose. Su queste cose ci guadagna tantissimo Luca, guadagna molte di più. E allora, c'è Gianni Bazzi di là, cioè chi sa sempre niente, però elettrotecnico come lui, famoso. Ce ne sono pochi qua a Sassari. Qui a Sassari ce ne sono pochi, ma proprio un bel pochi. Lui è specializzato e dunque si ribadi, solo che c'è il difetto di stare sempre piangendo. Vabbè. Luca, qua non ti rispondono. Fittu! Pensate che prima stava rispondendo. E allora, perché gli abbiamo toccato il puntino? Che l'abbiamo sgamato, che c'ha i soldi? Ma minimo se vendi che cosa, come un ripuntino, una gara. Ehi, chissà cosa combinendi. Chissà cosa fendi, mamma mia. Secondo me sta facendo. Secondo me sta facendo cose sensate. È per mantello, mi. Non te lo guardare così, mi. Oh, yeah. Ma già lo so, già primo giorno me ne sono già accorto, fatto l'uva. Anche Gian Maria è per mantello, mi. Non te lo guardare così, mi, anche a Gian Maria. Che è per mantello pure lui. Ma che diciamo grazie a lui. Ma di chi no che siete tutti quanti in furbacchio, vabbè tranne tu grazie a te furbacchione, che a me non mi dà la voce, mi pare che tu sei un bel attento, un bel diligentone. Vincereggio Mari, inteso hai? No, non lo sento, sono quell'antennino. Non hai sentito cosa ha detto? Non lo senti a Vittu? Vittu, non ti senti? Ho detto Gian Maria che qua siete tutti qua furbacchioni, ma mi sembra che Graziano è l'unico che non è furbacchione. Mi pare che voi siete furbacchioni di Graziano, però perché Grazia ha una voce che da proprio da intelligente proprio. Grazie a me, dire che si mette l'antenna in casa e fa parlare a casa, a me non lo piglia freddo. Ma è Salesiani adesso. Capito. Vittorio, ma perché non te la compri un'antenna e te la metti in casa? Un antennino. Mi rivolto già. E così, quando vuoi da casa con l'antennina esterna, senti dappertutto. Che dove la posso trovare, grazie? Dimmelo tu che me la compro. Guarda, quella che c'ho io. L'ho presa dal telefonino su internet, l'avevo pagata mi sembra 32 euro e mi è arrivata dopo 3-4 giorni. Cioè l'antenna, il filo lo ordini lo stesso tramite internet dove compri l'antenna e anche il PL per collegarlo alla radio dove c'è l'antennino. Ho capito. E con quella esterna spari più lontano, mi senti più bene, capito? Ma è questo, sono apparecchiature diverse, perché ho visto anche quella di Bacchino, ma l'ho fatto anche vedere. Io ho parli di fondo, c'è apparecchiature professionisti. Sì, c'è la casa è professionale, va. Ma almeno c'è una porta di 10 km. Io la chiudo con una gaggata, non vai più tanto. Tutti da dentro casa, in caldo e tutto. Mi siete cazzicati tutti e due, Gian Mario stava parlando Vittorio. Adesso aspetta, rilanciamo a Gian Maria che ti stava dicendo cosa. Vittu, zitto tu. Parla Gian Mari. Ho detto, mettersi l'antenna esterna in casa, almeno riparla la casa in caldo, capito? E arriva dappertutto perché non può rimanere sempre in giro per parlare fuori, capito? È sempre meglio dentro casa che fuori, è pericoloso con quell'apparecchio in giro, capito? Perché se lo beccano. Sentito è Vittu? Sì, già ho sentito. E così moduli da casa, perché tu in effetti quell'apparecchio non lo potresti adoperare, capito? Dovresti pagare anche la tassa. E se ti beccano ti fanno passare guai, capi? Invece da casa non ti vede nessuno e parli quanto ti piace, poi quando c'hai la disponibilità e l'età, non lo so, adesso, se lo può fare adesso Giomari la tassa. Come? La tassa lui la può pagare adesso. Beh, se fa la domandina, sì. Se fa la domandina, sì. Però una volta che paga la tassa, capito? Cazzo, magari presenta, ecco, io ho già pagato la tassa anche se non ho finito di fare la domandina, almeno c'ha la tassa pagata, capito? È già un'altra cosa, capito? Però non si deve fidare su strada, capito? Vittorio, capito, al limite adesso, se ti viene bene, te lo fai vedere da Bacchisio il modulo, il conto corrente, te lo fai procurare da Bacchisio, compilato a nome tuo e fai il versamento, paghi la tassa 12 euro, 13,50 euro paghi alle poste. Almeno c'hai almeno il permesso, capito? O come hai pagato la tassa, perché sennò sono guai se ti pizzicano. Ci sto parlando che babbo. Allora dilla Bacchisio, lo sai dov'è Bacchisio, se ti ha fatto vedere le cose, le radio sue, se te lo fa, se te lo dà il conto corrente e tu paghi il versamento, paghi 13,50 e vale tutto l'anno. Almeno sei in regola. Cambio. Sono di Bacchisio, glielo dico. Io il numero non ce l'ho, non l'hai visto tu dove abita, non si è fatto vedere le sue radio. Sì, te me l'ha fatta vedere. Dunque lo sai dove abita. Ragazzi, mi ricevete, cambio. Grazie, mi si sta spegnendo il walkie talkie perché ce l'ho scarico. Non mi senti più. Mi ricevete. Si è finita la batteria, Giovanni. Infatti, mettere a casa, si mette l'alimentatore e non ho problemi di batteria. Capito? Cazzo, ha bisogno magari. Però queste cose magari è meglio dirle in persona sempre, senza, capito, grazie, senza fare. Sì, ho capito. Magari si dice in persona come fare, ed è più tranquillo. Su strada non va bene, non si può usare. Se lo vede Luca c'ha più possibilità di vederlo, glielo può dire, gli può dare anche un conto corrente compilato. È un matrimonio, io non lo vengo, io lo esco. Ma Luca già lo dovrebbe trovare, c'ha più possibilità di incontrarlo, capi? O Bacchisio, dato che è lì vicino a Bacchisio. A qualcuno, no? A Bacchisio, al Tore, o a Luca, capito? Compila il modulo e la paga dopo. Se c'è il modulo, fai la domandina e la finisce a Cagliari, capito? Lei tra qui, più tranquillo, là. È tutta un'altra cosa, capito? Ma ti ha spiegato come tutta la struttura casa, come può funzionare la radio, a fargli vedere queste cose. Che è un'altra anche in frequenza. Dato che gli piace, perché si vede che gli piace, però non lo so, è di un'onizzata, ci vuole uno che gli faccia vedere l'alimentatore, come funziona e tutto, no? Capi? Se non va nessuno, gli da fa brividi, non lo so se gli sa fare, compreso. Ragazzi, mi ricevete? Bisogna consigliarlo come fare, come non fare, capito? Lo attacca con l'alimentatore, non ha problemi, c'è la carrozzina della batteria, chi c'è il sastro, capito? Queste cose bisogna vedere, ma che magari lui non le sa queste cose, capito? Mi ricevete? non ne sanno, ci vuole uno che gliele faccia vedere come si fa, come si fa, capi? Aiutarlo. E già se li fa allora, capi? Grazie. Mi ricevete? Sì, dimmi. Ma mi ricevete? Sì, più basso ti sei. No, come hai sentito? L'altra, la piccolina, Ehi, più basso, che bello lo stesso, dai. Io qualcuno lo ricevo bene, altri per cui mi sento male. Fatto un po' il volume di più. Guarda adesso, uno, due, tre, prova. Mi ricevete? Bene, ci sento. Mi ricevete? Eia, stavo dicendo, a coso, a Vittorio, se tu lo vedi, se glielo fai il modulo compilato, glielo dai e lui ci paga il versamento. Che lui non è sano di queste cose. Ah, mi ricevete? Sì, vabbè, ma prima deve fare la richiesta. Dovrebbe chiamare a Cagliari, così glielo dicono. Glielo dico cosa deve fare bene, bene, bene. Mica va e paga il coso, no? Non è così come dici tu, grazie. Aspetta un attimo che sto preparando l'aria solo, dai, me lo faccio così, che ho tosse a colpi, dai, comunque già mi sta passando. Mi ricevete? Non ti sento, Vittu, sei sparito. Ma se non c'è uno che mi deve farti vedere come ti va tutto, quello sto dicendo mi Luca. Lui non è sano. Mi ricevete? Capito. Io qualcuno non sento, altri no, zero. Chi è che ti sente in mezzo al QRM? Foxtrot Mike, che ascolto, cambio. Sì, in mezzo al QRM, non riesco a capire cosa stai dicendo. Ma mi ricevete oppure sentite male? Chi è? Foxtrot Mike, all'ascolto. Ciao Maria, adesso chiudo da. Ciao Luca, ciao Gio Maria, ciao Vittorio, se sei in ascolto e ciao chi è in ascolto. A domani se coincide. Ciao a tutti. Ciao, buon provvedimento. Ciao, va, grazie, sono in casa, dai. A domani se coincide, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.